9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì e buon fine settimana. È il venerdì 19 di febbraio, l'argomento di cui ci occupiamo oggi, vado tra poco a descriverlo. Una considerazione iniziale, poiché abbiamo sempre attenzione per i temi del fisco, a quello che è avvenuto ieri, è avvenuto a Austin, la capitale del Texas, dove Joseph Andrew Stack, un contribuente perseguitato dal fisco, almeno così egli si riteneva, a torto perseguitato dal fisco, alla fine, dopo una vita di impugnative, di disperanti lotte contro la macchina fiscale, ha deciso di fare un gesto estremo nei confronti del quale certo non si possono avere giustificazioni. Ha bruciato la casa, pensate, poi ha noleggiato un aereo e con questo aereo si è diretto giù, dritto come un kamikaze dell'11 settembre, sulla sede dell'agenzia, dell'entrata, Internal Revenue Service, e si è schiantato col suo aereo dicendo: visto che ci volete, ci tenete tanto a prendere la mia carne, allora ve ne do tutte le libere e poi andatevene a fare una dormita. Un gesto estremo, non c'è dubbio. Però attenzione, quando gli stati pretendono troppo con le tasse e i contributi e danno in cambio non abbastanza, i cittadini si sentono perseguitati, si sentono vessati, si sentono conculcati, si sentono derisi. Non devono mai fare gesti estremi come questo, ma il gesto estremo fa riflettere della nuova epoca intorno nella quale siamo entrati, con lo Stato che diventa sempre più rilevante le funzioni per contrastare la crisi, chiede e chiederà rispetto al debito pubblico che sta accendendo sempre più tasse, e in cambio cosa ci dà? Ecco, uno dei capitoli di che cosa ci dà in cambio è sicuramente quello di cui ci occupiamo oggi. È uscito un libro di circa 400 pagine, è un libro fatto da più saggi scientifici, un libro collettaneo, ma è veramente un libro straordinario, questo è il mio giudizio, per chi si occupa del tema delle opere pubbliche nel nostro paese, è edito dal Mulino. E la domanda che pone è una domanda secca nel suo titolo: ma possiamo ancora pensare in Italia di realizzare infrastrutture? Ecco, tutta la tematica della pianificazione, progettazione, selezione, finanziamento, realizzazione, procedure di realizzazione, di valutazione di impatto ambientale, conferenze di servizio per ottenere i consensi delle enti locali, di tutti gli enti locali interessati dalle diverse opere, tutti i diversi aspetti dell'odissea delle opere pubbliche, delle infrastrutture nel nostro paese vengono analizzate in questo saggio da una squadra di autori che sono veramente di primario livello, perché ci sono funzionari dirigenti della Banca d'Italia, professori di diritto amministrativi, di diritto amministrativo, economisti, dirigenti della Presidenza del Consiglio, capi del Dipartimento Programmazione e Coordinamento presso la Presidenza del Consiglio, specialisti dell'Agenzia delle Entrate. Quindi c'è veramente una squadra di primo livello che è stata coordinata da Alfredo Macchiati e Giulio Napolitano. E Giulio Napolitano, che lo ricordo, insegna istituzione di diritto pubblico nell'Università di Roma 3, è uno dei giovani, si fa per dire, ma rispetto all'età media in cui si assumono incarichi e si realizzano opere importanti in Italia, è ancora giovane, che si è più occupato anche di diritto della concorrenza nel nostro paese, quindi un benemerito ai miei occhi. Ecco, Giulio Napolitano, il professor Napolitano, ha accettato di essere nostro ospite, quantomeno per la parte iniziale della trasmissione. Io di questo lo ringrazio, perché con lui iniziamo a ragionare insieme al professor Marco Ponti, che anche saluto, ora darò la parola a entrambi, iniziamo a ragionare su tutti i diversi aspetti analizzati in questo libro. E iniziamo. Buongiorno professor Napolitano. Buongiorno. Buongiorno professor Ponti. Buongiorno. Ecco, professor Napolitano, la cosa che le chiedo immediatamente è la conclusione del libro e tutti gli argomenti che mette sul tavolo su ciascuno di questi diversi capitoli, insomma, è una conclusione un po' critica di questo passo. Per quanto sia apprezzabile lo spirito costruttivo col quale si mette mette mano a nuovi strumenti, la legge obiettivo, eccetera, eccetera. I tempi sono lunghissimi, i procedimenti di selezione sono un po' incerti, le procedure condivise con le regioni, come le autonomie, sono le più varie e diverse e molto foriere di sorprese. Il risultato è un risultato in cui il gap infrastrutturale italiano rischia di accrescersi e poi talvolta rischia invece di risolversi, ma con su alcune opere, in alcuni casi più in apparenza per avvenimenti casuali, perché magari c'è un politico che insiste lì, che riesce ad attivare alcune, rispetto a una selezionata valutazione di priorità vere rispetto alle necessità maggiori di opere per i problemi del trasporto nel nostro paese o energetici. La domanda obbligatoria iniziale è di un punto di sintesi: oltre a dare gli strumenti e a essere, come giusto, critici, la sua opinione personale è che si possano ancora realizzare nel nostro paese le infrastrutture, professor Napolitano? Alcune infrastrutture sì, quando entrano in campo non soltanto, diciamo, pressioni politiche, come lei diceva, ma buona amministrazione. E se andiamo a fare delle misurazioni sul campo, come si è provato a fare, ci sono dei differenziali. Una ricerca ha dimostrato ad esempio che le procedure di appalto hanno durate molto diverse purtroppo al nord e al sud. Un'indagine applicata ha dimostrato che in Lombardia ci si mettono 600 giorni e in Sicilia 1582. Ora, il fatto che in Lombardia ci si mettano 600 giorni vuol dire che almeno ci sono delle condizioni ambientali o delle condizioni di efficienza amministrativa che consentono, come dire, di arrivare prima al traguardo. Se noi fossimo in grado di riprodurre queste condizioni di migliore efficienza amministrativa e di best practice un po' più diffusamente sul territorio nazionale, potremmo avere qualche speranza in più. Questo a prescindere da tutti gli interventi, come dire, normativi sui quali riflettiamo nel volume. Quindi, insomma, una speranza c'è, però resta il fatto che se uno pensa al divario infrastrutturale che grava per esempio sul Mezzogiorno d'Italia, che è una delle condizioni, delle sue precondizioni per il mancato recupero dei gap di PIL pro capite, di reddito pro capite, che in questi ultimi anni è tornato ad evidenziarsi rispetto alle regioni più avanzate del nostro paese, ieri mi leggevo l'ultima versione del rapporto Svimez che valutava nei tempi di realizzazione, una volta definite e approvate tutte le procedure per la realizzazione, cioè quando si ha praticamente l'ok al piano esecutivo di un'opera infrastrutturale nel sud, se il valore di quest'opera è superiore ai 100 milioni, cioè stiamo parlando di un'opera importante, i tempi di realizzazione sono 12 anni e mezzo, se tra i 50 e i 100 milioni e tra i 9 e i 10 anni, per le piccole opere, cioè fino ai 5 milioni, stiamo parlando di 7 anni, giudizi che nel piano Svimez naturalmente, tempi, voglio dire che nel piano Svimez si sottolineava come fossero totalmente incompatibili con i programmi che sono di 6 anni di finanziamento comunitario, e di cui oltretutto anche il fatto che molto spesso nel giorno avviene quando vi sono opere finanziate con i fondi strutturali europei, il cofinanziamento nazionale, delle opere che poi si iniziano e restano appunto a metà, perché visto che i tempi di realizzazione scavallano i programmi di finanziamento europeo. Professor Ponti, l'ottimismo della volontà che c'era nelle parole del professor Napolitano è da condividere, quantomeno portando al meglio nelle regioni e nel sud del nostro paese quel po' di best practice che consentono tempi più rapidi e procedure meno incerte, oppure bisogna essere un pochino più critici ancora? Ma io faccio il trasportista, l'economista dei trasporti, e secondo me 3/4 dei problemi riguardano una diagnosi sbagliata sulla scarsità di infrastrutture in Italia. C'è scarsità di infrastrutture, ma non di grandi infrastrutture per il trasporto di lunga distanza. Questo è semplicemente indifendibile sul piano tecnico. La domanda di trasporto, quindi il costo per le imprese e per le famiglie, è per il 75% di breve raggio. Nelle aree metropolitane sul breve raggio c'è il 75% della congestione e di tutti i problemi. Invece tutte le risorse, tutto il dibattito riguarda le grandi opere per la lunga distanza. Ma parliamo con le imprese che si servono del trasporto, non di quello hanno bisogno. I costi sulla lunga distanza sono del tutto paragonabili. paragonabili a quella del resto d'Europa. Le infrastrutture ferroviarie, per esempio, su cui così tanto si è investito, per le merci, per le imprese, non c'è scarsità di infrastrutture ferroviarie, anzi c'è sovrabbondanza di infrastrutture ferroviarie. Quindi va cambiata radicalmente la filosofia. Quello che serve è l'intervento a scala regionale, e questo contiene in sé anche parte della risposta tecnica, cioè un maggiore decentramento delle risorse può responsabilizzare molti enti locali che fanno opposizioni, come dire, strumentali a volte, su un uso più sensato delle risorse. Ma tutta la filosofia che qualsiasi cosa serve, e soprattutto servono le grandi opere per le lunghe distanze, è insostenibile. Quindi lei dice ci saranno anche problemi di procedura, eccetera, eccetera, ma intanto è la selezione, non si ha un'idea delle priorità che davvero servono, è questo il punto. Assolutamente no, perché si ha solo idea delle priorità che hanno visibilità politica e non quelle che davvero servono al traffico e alla mobilità. Però professor Boy, scusi, quello che serve poi, che avrebbe impatto politico, perché non so se bisogna anche tenere attenzione in questi giorni se oltre che la visibilità politica non siano anche altri fenomeni che poi indirizzano le opere, insomma le cronache di questi giorni ci riportano con l'attenzione, no? I fenomeni di connivenza impropri. Allora, è davvero la ricaduta politica? Perché poi spesso quelle opere suscitano più contrasti e opposizioni di quanto tra non... Tra l'altro, ma per inciso, ma mettere a posto, sistemare la rete stradale esistente non ha nessuna ricaduta politica ed è anche complicato e difficile, per cui la rete stradale ordinaria esistente è la cosa che serve di più: migliorare la sicurezza, la qualità e le dimensioni della rete stradale ordinaria esistente, che è la somma di tante piccole opere con visibilità politica nulla. Quello è quello che serve, e invece si concentrano tutte le risorse su grandi opere di lunga distanza di dubbia utilità e di dubbia urgenza. Professor Napolitano, guardiamo un secondo a un aspetto strutturale di questa complicatissima convivenza tra centro, Stato, quindi CIPE per capirci, tutti i procedimenti incardinati lì, rispetto poi ai piani regionali quando subentrano cofinanziamenti europei, eccetera, eccetera. In conclusione, proprio a conclusione della parte iniziale, dell'introduzione del vostro volume, l'introduzione che lei firma con Macchiati, la conclusione è un po' amara, perché dice: sembra in conclusione che manchi un disegno innovatore chiaro e coerente anche con l'insieme delle trasformazioni subite dalla distribuzione dei poteri e dai vincoli della finanza pubblica. E forse questo, al di là delle contingenze del momento, è il vero problema che ormai da 3 decenni non consente all'Italia di recuperare il suo ritardo infrastrutturale. Dal punto di vista quindi del federalismo istituzionale, chiamiamolo impropriamente così, di questo cantiere aperto che non si sa dove sfocia, con le armi del diritto la politica oggi è più frenata oppure semplicemente non le sa usare e si autocappotta perché non le sa usare? Ma diciamo che in parte non le sa usare, anche perché richiedono scelte, diciamo, coraggiose. Volevo riprendere un punto toccato giustamente dal professor Ponti. In realtà per una serie di opere di livello, come dire, regionale o locale, che sono molto importanti, sarebbe bene che diciamo, le scelte venissero determinate esclusivamente a livello regionale e locale, il che peraltro richiede che quelle regioni e quegli enti locali dispongano di autonome risorse finanziarie da investire in modo responsabile. Ora, da questo punto di vista, se si attua in modo corretto il federalismo fiscale, qui abbiamo una possibile come dire, soluzione del problema. Se regioni ed enti locali dispongono di risorse finanziarie proprie, a quel punto devono essere messe in condizione di investirle per progetti infrastrutturali di interesse regionale e locale, senza doversi poi impegnare in una trattativa con lo Stato per avere i fondi necessari. All'opposto, per le opere invece di rilevanza strategica nazionale, che però dovrebbero essere pochissime, selezionate in modo corretto in base a un'analisi costi-benefici, per quelle bisognerebbe ridurre il più possibile il potere di interdizione di regioni ed enti locali, perché lì entra in gioco un interesse strategico statale che deve essere apprezzato in quella sede senza troppe negoziazioni non necessarie. Io faccio presente, per esempio, che su 62 grandi progetti infrastrutturali che rappresentavano l'impegno maggiore per la parte di finanziamento europeo per il sessennio 2007-2013, di quei 62, 54 sono di pertinenza alle regioni del sud, solo 6, e siamo oramai a metà del sessennio comunitario, siamo nel 2010, sono arrivate all'approvazione definitiva e quindi al finanziamento vero, all'applicazione all'inizio dell'applicazione del finanziamento europeo. 6 su 62, questo secondo me la dice un po' lunga. Professor Napolitano, c'è anche un altro aspetto, quello della complicata gestione sul territorio, soprattutto quando si tratta di grandi opere, appunto pensiamo alla TAV, ma credo che adesso con l'individuazione dei siti poi delle centrali nucleari di cui si è iniziato il percorso non assisteremo di sicuro a difficoltà minori, della convivenza tra il centro che individua e che sceglie, sentite le regioni, sentite le autonomie, e poi la concreta gestione delle procedure di impatto ambientale eccetera eccetera eccetera, aggiunti anche alla questione degli oneri paralleli, gli oneri di compensazione per le autorità locali. Ecco, da questo punto di vista, nella realtà comparata tra Italia e altri paesi avanzati, che lezioni si possono trarre? Sì, ma qui purtroppo registriamo un grave ritardo, ne parlavamo con il professor Ponte a un altro convegno su questo tema proprio qualche giorno fa. E in realtà c'è un paradosso di cui si parlava anche l'altro giorno. Noi ad esempio in materia di nucleare abbiamo avuto il massimo di democrazia politica con un referendum nel 1987, a cui poi è seguito il minimo di democrazia amministrativa. Che cosa voglio dire? Che le decisioni sono tutte politiche sulle grandi opere e poi invece non c'è nessun meccanismo di consultazione delle popolazioni interessate, ad esempio al momento della localizzazione, e questo diciamo non consente di prevenire la contestazione delle opere e a ciò si accompagna l'assoluto ritardo in materia di definizione degli oneri cosiddetti di compensazione. Ora ciascuno di questi temi meriterebbe un approfondimento specifico e poi vediamo se c'è tempo per farlo, però c'è un saggio nel libro molto interessante proprio sulle compensazioni di Enrico Baffi, e lì che cosa si dimostra? Che le compensazioni possono servire in certi casi, ma quelle monetarie possono avere addirittura degli effetti controproducenti. Esatto. Perché generano nella popolazione un effetto di corruzione, cioè io ho la percezione che se accetto una compensazione monetaria mi sto corrompendo, accetto di vendere tra virgolette i miei figli e i miei nipoti per una manciata di denaro. Per questa ragione come dire, al meccanismo della compensazione si dovrebbe ricorrere soltanto in casi di assoluta necessità, e sono molto meglio le compensazioni per così dire reali, che ad esempio riequilibrano in termini di impatto ambientale l'opera, piuttosto rispetto a quelle meramente monetarie. E su questo, sia sulle procedure di localizzazione sia sulle modalità di negoziazione e di corresponsione delle compensazioni, noi abbiamo un grave ritardo normativo, perché non abbiamo procedure di localizzazione ben articolate, non abbiamo meccanismi di dibattito pubblico e non abbiamo tecniche di definizione di tali compensazioni. Ecco, io ricordo a chi ci ascolta che Enrico Baffi, l'autore proprio di quel saggio sul problema degli oneri di compensazioni, insegna analisi economica del diritto all'Università di Roma 3. Alcuni sms, perché poi ci interrompiamo per un po' di pubblicità e poi riprendiamo con gli ospiti, e altre stanno arrivando. Un sms se mi ha colpito perché dice: ma quale messaggio vuoi far passare? Che non si può far niente senza deroghe e quindi viva la cricca, cioè quella di Bertolaso? No, noi stiamo ragionando pienamente sul fatto se le procedure in essere, quelle ordinarie, non stiamo ragionando adesso della protezione civile e delle emergenze, e in termini comparati rispetto agli altri paesi avanzati hanno delle responsabilità precise sul ritardo nella realizzazione delle opere, nella selezione eccetera, oppure noi che cosa si può fare? Non ho minimamente confuso la faccenda. Altro sms che secondo me esprime bene però una vasta parte di sensazione dell'opinione pubblica: la verità è che tra opere in fretta e non fidarsi dei politici e dei poteri economici prevale questo secondo aspetto tutto, ed è questa una delle cause della sindrome NIMBY, cioè fatele altrove ma non vicino a casa mia. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando del tema sollevato con questo volume appena uscito dal Mulino a cura del professor Giulio Napolitano e del professor Alfredo Macchiati. Si possono realizzare le opere pubbliche, le infrastrutture in Italia? Lo ripeto, è un saggio scientifico, quindi sono molti aspetti che vengono approfonditi sul sistema degli indici comparati di infrastrutture di trasporto tra il nostro paese e gli altri paesi avanzati, sul problema delle compensazioni per la realizzazione delle opere, sulle procedure di localizzazione e sulla partecipazione, sui rapporti difficili tra centro e periferia per la realizzazione delle opere. Poi c'è tutto un capitolo che non abbiamo ancora toccato e che è un altro capitolo dell'anomalia, del ritardo italiano rispetto ai paesi avanzati, che riguarda cioè le possibilità, le metodologie per il finanziamento delle opere con il partenariato pubblico-privato, cercando cioè di coinvolgere i privati nel finanziamento delle opere attraverso il project financing. Ma come ovvio, maggiori sono i ritardi, maggiori sono le incertezze sui ritorni dell'opera e sulla redditività degli investimenti, maggiori sono le incertezze sui tempi della realizzazione degli investimenti e quindi sulla proiezione temporale del ritorno del capitale, più difficile e più complicato è tentare di convincere il capitale privato, per cui queste invece sono essenzialità per poter elaborare delle equazioni di redditività certe, a poter davvero finanziare le opere. E questo spiega perché noi siamo un paese che soprattutto nelle categorie di opere che sono quelle che più si finanziano con il project financing, classicamente quelle aeroportuali, quelle portuali eccetera, invece fa molto meno ricorso degli altri paesi avanzati, con il risultato che bisogna ricorrere ancora più a capitale pubblico, che di capitale pubblico ce n'è poco da investire e deve andare ad altre priorità, e quindi c'è anche questo punto. Poi c'è tutto l'altro capitolo che riguarda le procedure ambientali. Il professor Napolitano ci ha lasciato, ma ci ha raggiunto, insomma, oltre al professor Ponte che avete già sentito, anche Chicco Testa, che è il presidente del comitato scientifico dell'associazione PIMBI, il contrario di quella NIMBY che non le vuole nel proprio giardino le opere pubbliche, e che chiede invece per favore facciamole, e che è anche managing director di Rothschild Italia. Buongiorno Testa. Buongiorno. Allora, nella sua esperienza, nella sua parabola personale, lei ne ha visto un po' di tutto, perché lei è stato un dirigente ambientalista, è stato un dirigente d'impresa, di una grande impresa. Quindi, avendo carotato personalmente un po' tutti questi aspetti, dovesse partire tra le procedure di selezione così come oggi funzionano, quelle di condivisione tra centro e periferia, quelle di finanziamento, quale cambierebbe per prima se dovesse pensare di sanare, fosse al governo per un anno, almeno un pezzo del ritardo italiano? Ma guardi, moltissime cose sono già state dette, è difficile aggiungere cose nuove, ma credo che il problema della frantumazione istituzionale sia il problema principale. E non mi riferisco esclusivamente agli aspetti che, diciamo, definiti di federalismo, Stato, Regione, Provincia, Comune, nelle grandi città abbiamo anche le circoscrizioni o i municipi, a seconda di quale città siamo, ma a tutti gli altri poteri laterali che stanno di fianco a questa linea verticale, vale a dire per esempio i 100 uffici dei 100 ministeri. Non è che uno parla con il Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero dei Lavori Pubblici è una cosa, poi ci sono i provveditorati, ci sono i commissari, c'è il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Ugualmente, se discute con il Ministero dell'Ambiente, non è che discute con il Ministero dell'Ambiente, può avere a che fare con una delle tante direzioni del Ministero dell'Ambiente, spesso non in accordo l'uno con l'altro. Ci sono le sovrintendenze. E anche quando parliamo di sovrintendenze, per esempio, io forse l'esperienza più importante in questo campo l'ho fatta con la metropolitana di Roma, un'opera che sta procedendo abbastanza bene, la linea C della metropolitana, ma non è che parliamo, quando ci rapportiamo alla sovrintendenza, non è che parliamo con la sovrintendenza di Roma, parliamo con 50 uffici della sovrintendenza di Roma, ogni pezzo della metropolitana di Roma è sottoposto alla sorveglianza di un diverso sovrintendente, le sovrintendenze sono diverse, c'è cioè la sovrintendenza dei beni archeologici, quella dei beni monumentali, occidentali, c'è chi si occupa della parte medievale, chi della parte romana, chi della parte rinascimentale, e bisogna passare tutti questi semafori con un atteggiamento complessivo dell'amministrazione pubblica. Diciamo che quando, sicuramente vale per la maggior parte dei casi, quando è onesto è comunque teso soprattutto ad evitare problemi, ad evitare di doversi trovare nella situazione per cui qualcuno lo possa in un qualche modo accusare, coinvolgere o accusare. Naturalmente, se il più che puoi fare è quello di evitare problemi, non è che sei proprio impegnato e proteso a snellire, a rendere rapide e efficace certe procedure, a fare il meglio. Se il meglio che puoi fare è quello di non essere coinvolto o no. Se ci fosse ancora in linea il professor Napolitano, ma gli telefonerò e glielo dirò. Io credo che sarebbe interessante che qualcuno facesse, oltre che... ci ha riraggiunto, quindi in questo momento sta parlando direttamente con lei. Grazie, no, stavo suggerendo a Giulio Napolitano che andrebbe fatto come si fa per i fenomeni storici, per gli storici, no? Diciamo, ci sono i macro storici e i micro storici, coloro che si occupano delle grandi tendenze storiche, e poi c'è chi analizza un fenomeno storico, diciamo, in tutti i particolari, cercando di capire che magari quella battaglia è stata perduta perché quella mattina il generale aveva il mal di zucca o il mal di pancia. Forse andrebbe presa qualche opera pubblica e fatto una specie di micro storia di queste opere pubbliche, punto per punto, giorno per giorno, per capire quali meccanismi perfidi, complessi, cioè per capire nel concreto che cos'è la frantumazione istituzionale, che ripeto non riguarda solo la linea degli enti locali di cui normalmente parliamo, Stato, Regione, Provincia, Comune, eccetera, eccetera, ma riguarda poi la frantumazione delle centinaia di uffici, delle varie istituzioni locali, ministeriali o di organi speciali come sovrintendenze, eccetera, che hanno responsabilità intorno ad un'opera. Certo. Tutte, come dicevo, tese fondamentalmente o a esercitare il proprio potere o ad evitare di avere problemi. Io devo, siccome ricevo, diciamo, molti sms, alcuni di loro dicono: attenti però a non considerare tutte le obiezioni sullo stesso piano, di veto politico, di richiesta di onere di compensazione maggiori, di taglieggio ricatto, insomma ci sono delle opposizioni e delle critiche basate su dati scientifici, su proiezioni di saturazione di opere e così via. E tante volte, io rassicuro chi manda questi messaggi, perché per esempio parlando di TAV mi avete sentito per primo formulare delle opinioni precise in merito a questo, in merito alla saturazione delle opere ferroviarie attuali, e in merito a quanto potrebbe costare questo percorso su cui si sarebbe raggiunto recentemente una convergenza rispetto magari ad altre alternative. Ecco, quindi per carità, io ce l'ho ben presente questo aspetto, mi chiedo però e vi chiedo, cari ascoltatori, se sia davvero questo il fenomeno prevalente del dibattito sulle opere e sulle infrastrutture italiane, cioè la serietà degli argomenti, o se non sia invece una sindrome generalizzata dovuta a quelle competenze che ci descriveva, così organizzate anche chi contesta oggi. Ecco, professor Ponti, siccome sentiremo adesso anche Giorgio Vair, vice sindaco di San Didero, uno dei comuni da sempre più impegnati sulla NOTAV, occupiamoci per un secondo di questo aspetto, della NOTAV che prende così tanta attenzione, mobilita così tante energie nervose, proteste e così via. È un po' un esempio di quello di cui parlava lei prima, cioè del fatto che a volte si prendono degli indirizzi che non sono prioritari o no? Ma è emerso, questa faccenda è emersa anche nel convegno di cui parlava il professor Napolitano l'altro giorno, cioè se l'informazione data alle popolazioni locali o alle amministrazioni locali è fortemente inadeguata, cioè non è basata su analisi credibili e terze, e questo non facilita, oltre alla mancanza di semplificazione amministrativa, come è stato detto, ma anche se gli aspetti di organizzazione del consenso è basata su informazioni molto di parte e molto distorte, come spesso accade, cioè che non sono terze e non analizzano più alternative, come è stato nel caso della della Torino-Lione, beh, questo ovviamente accentua le tendenze alla resistenza. Però su di nuovo sulla sindrome NIMBY, io direi anche che accentuare il decentramento amministrativo visto da un economista è molto importante anche per evitare il fenomeno che si chiama finanza derivata, cioè l'obiettivo a livello locale diventa tirare più soldi che si può in un modo o nell'altro, no? E questo distorce molto l'uso delle risorse. Se invece un po' all'americana, ma anche i francesi sono mossi in questa direzione, si accentua il ruolo locale del finanziamento, sia del prelievo che della spesa, questo diminuisce, non solo diminuisce le resistenze locali, ma aiuta molto anche a semplificare l'iter amministrativo e migliorare la qualità delle scelte, perché si fanno le cose che servono di più. E siccome, come dico, tre quarti, almeno per i trasporti, dei problemi sono strade locali, accentuare questo decentramento mi sembra una delle strade per diminuire le resistenze meno giustificate, o giustificate solo sul piano del ricatto economico, cioè dammi qualcosa in cambio. Certo. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando di questo libro, un saggio scientifico sul mulino, possibile realizzare le opere e infrastrutture in Italia, a cura di Alfredo Macchiati, Giulio Napolitano. Allora, Giorgio Vair, vice sindaco di San Didero, uno dei comuni da sempre più notav, a che punto sono le cose dopo che primi incidenti, un ferito anche grave, Che opinione possiamo nutrire di come procederà le cose, di come procederanno le cose in valle? Buongiorno a tutti. Non ho seguito tutta la trasmissione, ma se mi è permesso volevo fare proprio solo una premessa, visto che ho sentito che c'è un approccio molto economico. Io ho qui davanti un articolo della Voce del 16, dove per l'ennesima volta viene affermato che da un'analisi costi-benefici, anche se pur superficiale, fattibile in questo momento, mancando ancora tutta una serie di dati, le infrastrutture che abbiamo in valle, che per adesso sono utilizzate a circa il 30% delle loro potenzialità, garantiscono le comunicazioni Italia-Francia in modo più che adeguato, e viene proprio evidenziato che chi dice beh, Cavour era stato sicuramente una mente eccelsa, viene anche ribadito che non siamo nella situazione di 150 anni fa. In allora si parlava di modificare i tempi di trasporto da una settimana coi muli e quant'altro a un giorno, a mezza giornata. Oggi si parla di modificare i tempi di trasporto riducendo il tutto di un'oretta circa, quindi non credo che sia questo uno degli investimenti prioritari. Se mi è permesso ancora sul discorso del rilancio dell'economia, parliamo di inquinamento delle grandi città, Torino una delle città più inquinate, forse lo Stato e l'investimento pubblico dovrebbe essere destinato a delle opere che garantiscono dei servizi a milioni di persone, non dei servizi che poi invece non sono così prioritari, oppure investimenti sul fotovoltaico, sulla prevenzione del dissesto, sulla sicurezza. Questo come premessa generale, soprattutto in un momento in cui la coperta è sempre più corta e i cittadini sono sempre più arrabbiati vedendo questi grandi fenomeni di malversazione in ogni grande infrastruttura che si vada poi a costruire o tentare di costruire. La situazione in valle, se posso ancora rubare un minuto, la situazione in valle è sicuramente in questo momento molto tesa, perché ci sono state nell'ultimo degli episodi che sono rimasti anche per noi amministratori che ci siamo presentati in quelle sedi, in quelle occasioni, proprio per cercare di fare un po' da cuscinetto per evitare le tensioni tra i manifestanti e chi doveva magari espletare questi lavori di trivellazione. Ci sono stati degli episodi con delle cariche insomma incomprensibile da parte mia, che ero lì sul posto, non erano assolutamente giustificate, era chiaro che perlomeno in tutte le occasioni precedenti ci sono state 4-5 trivellazioni, tra l'altro sul sito autostradale, su un sito ferroviario, che sono già indagati geognosticamente nel tempo, quindi non si capisce perché questa farsa di... No, la domanda che le faccio, vice sindaco, noi abbiamo fatto la trasmissione anche il primo giorno che iniziamo le trivellazioni, proprio per seguire in diretta l'evolvere della situazione laddove c'erano i cantieri. Lei sa meglio di me, il governo dice noi per non perdere il finanziamento garantiamo l'esecuzione delle trivellazioni persone usando anche le forze dell'ordine pubblico, naturalmente come estremo ricorso, però come si vede poi si attivano, visto che il ferito deriva esattamente, le cariche di cui lei stava parlando avvengono esattamente per quello. Ecco, in caso di una procedura predichiarata di questo tipo, l'amministratore locale, che come nel vostro caso ha delle obiezioni, un dissenso forte, che fa? Deve spiegare alla gente che non è il caso di mettersi lì e ostacolare o altrimenti reagiscono le forze dell'ordine, oppure no? Perché questo è il punto a cui nessuno sa dare una risposta nel nostro paese. Come ci si comporta? Come è giusto comportarsi? Allora, come amministratore locale, con la percezione e perlomeno col sentire, con le determinazioni fatte dall'amministrazione locale, quindi delibere e quant'altro, abbiamo cercato di spiegare in primis al prefetto e a chi voleva fare le trivellazioni che erano del tutto inopportune nel momento in cui non c'è ancora neanche un progetto preliminare. Ciò detto, dall'altra parte ovviamente abbiamo cercato di capire, di far capire che il manifestare deve essere è più che legittimo manifestare il dissenso, deve essere contenuto insomma nel rispetto delle forme e delle regole. Grazie a Giorgio Vair, purtroppo il tempo è tiranno, ma come vedete noi diamo sempre sulla tavola, io continuerò sempre a dare voce alle obiezioni, perché su questo la penso come il professor Ponti. Io penso che analisi serie alla mano sconsiglierebbero, poi questo paese è un po' singolare, io non credo che si realizzerà, ve lo dico con grande sincerità, accetto scommesse su questo, penso che dovremmo concentrare su altro la nostra riflessione, e la mia è un'analisi di tipo economico più che ambientale, sono sincero su questo, ma seguiremo l'evoluzione delle tensioni in valle. Sentiamo alcuni ascoltatori, parliamo per esempio di Maurizio da Modena. Prego Maurizio, che ne pensa? Buongiorno dottor Giannino, guardi, per quanto riguarda la TAV, io avendo lavorato in ferrovia fino al 2001 per 30 anni e essendo stato sempre negli uffici che seguivano i piani di intervento straordinario, i finanziamenti dello Stato, posso dire che quello è un lavoro che noi ce l'avevamo già dal piano integrativo del 94, dal contratto di programma quinquennale del 94, per cui ogni anno spendevamo i soldi. Pensi un po' quanti anni è che si fanno gli incontri con la Francia per studiare quella linea. Ecco, e i soldi che sono stati già spesi. Per quanto riguarda le ferrovie, le posso dire che abbiamo sperperato veramente tantissimi miliardi a pioggia su tutto il territorio italiano con opere incompiute. Le posso dire una, la Ferrandina Matera, la Civitavecchia Capranica Orte, le locomotive dell'elettrificazione della rete sarda a 25.000 kV alternata. E questi sprechi di cui lei parla da cosa derivavano? Derivavano da pressioni o da mancata capacità? Perché ogni regione chiedeva più soldi. Non si chiedeva degli interventi funzionali, i sindacati chiedevano quanti posti di lavoro si creavano, per cui non si investiva. Poi però Maurizio, lei è uscito nel 2001, però l'attuale amministratore delegato Moretti ha picchiato il pugno, ha detto alle regioni: io il trasporto universale a costo mio beneficio vostro non ve lo faccio più, tirate fuori i soldi, se no fate le gare. Un po' cambiata l'aria negli ultimi anni, oppure ma no? Comunque il grosso guaio delle ferrovie è stato che noi abbiamo speso molti soldi sulle opere infrastrutturali perché creavano molti posti di lavoro, questo negli anni 80, anni 90, quello che chiedevano i sindacati, e molto di meno sulla tecnologia e sull'armamento, dove sul materiale rotabile, cosa che adesso non si può fare perché mi sembra dal 96 con una disposizione dell'Unione Europea, del commissario Chino, che non è più possibile finanziare il materiale rotabile con soldi pubblici. Grazie a Maurizio da Modena, la sua esperienza diretta in ferrovie, lunghi anni di pressioni dal basso e quindi soldi sprecati. Sentiamo invece l'opinione di Dario da Brescia. Prego Dario. Buongiorno a lei e ai vostri ascoltatori. E rispondevo a chi contesta, che diceva: ma facciamo una valutazione di cosa è successo, insomma, così capiamo e vediamo questo ruolo micidiale che hanno gli enti frammentati nel territorio. Beh, verrebbe fuori un sistema politico e una classe politica assolutamente inadeguata. Una ragazza mi ha mandato qualche giorno fa una tesi che ha fatto sui 10 anni di Malpensa con una valutazione della policy degli attori, e si vede nei 10 anni come sono cambiate le posizioni di tutti gli attori, escluso un attore che è rimasto sempre coerente, che è stato un sindacato della CISL. Gli altri politici amministrativi hanno cambiato tutti posizione. Allora, facciamola questa valutazione. Questa valutazione ci permetterà di dire che la irresponsabilità politica è elevatissima. Malpensa è un esempio di come non si devono fare gli investimenti. Grazie a Dario da Brescia. Io dico sempre a Bonomi, che guida la SEA, quindi la società degli aeroporti milanesi Mirinate, Malpensa, che lui ha sicuramente il record, poiché nella costanza del suo mandato il maggior numero di decreti governativi che cambiavano impostazione o di contesto o di vettore su chi gli portava la maggior percentuale di traffico e su quella che poi si è rivelato quello che gliene ha levata la maggior percentuale. Sto parlando naturalmente delle diverse traversie di Alitalia. Quindi, come vedete, il bilancio è un bilancio aperto, posto da questo volume. Ci sono tantissimi gli aspetti su cui riflettere. C'è chi nell'esperienza ha cambiato non idea, ma ha adeguato la sua idea alla realtà dei problemi italiani, come Chicco Testa. C'è chi tenta con le armi del diritto di dire: già se estendessimo le best practice attuali nelle parti dell'Italia che funziona, quelle che non funziona, comunque dimezzeremmo i tempi. C'è chi, come il professor Ponti, fa l'economista dei trasporti in maniera seria, dicendo: la coperta è corta, andiamo sulle priorità vere e non dimentichiamo che il più del trasporto commerciale delle imprese è a livello locale, su percorrenze brevi e medie, e va su gomma. Queste sono le priorità del nostro paese. Io ci aggiungo il nucleare, e auguri a tutti per evitare che presto l'Italia diventi una valle come quella della Notav, con la gente che va all'ospedale. Non è di questo che abbiamo veramente bisogno. Grazie a tutti gli ospiti, a voi, grazie a Pippo Reggi in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione, la Lino Generale Radio. L'appuntamento con noi è per lunedì e l'ospite sarà Bianca Berlinguer. Parleremo con lei di cosa vuol dire essere direttore del TG3 in questa difficile Italia. A lunedì.